Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko from Bologna, Italy, e naturalmente sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché sul web dove potete ascoltarci tramite l'apposita app che potete tranquillamente scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. Al mercoledì alle ore 10.30 più o meno inizia una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club e un paio di ore di musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. Prima di dimenticarmi dirò che non mi sentirete in voce dal vivo per un paio di settimane, un po' di ferie dovute anche al concerto che andrò a vedere a Barcellona di Bruce Springsteen e della E Street Band, quindi starò un po' in zona, diciamo così, nei Paesi Baschi per qualche giorno per un po' di riposo e spero un po' di fresco. Comunque anche oggi Città Fujiko Live Club inizia con una novità, e una grande novità, sono molto molto felice di proporvela, anzi prima però devo dire una cosa purtroppo molto triste, nel senso che non è mia abitudine, non lo faccio quasi mai, ma vorrei dedicare questa trasmissione a Paolo Carù, che forse molti di voi non lo conosceranno, non è un musicista, non è un cantante, non era purtroppo un musicista, non era un cantante, ma era il titolare di un negozio di dischi di Gallarate e nonché precursore e divulgatore di un certo tipo di musica in Italia che altrimenti non avremmo conosciuto. È stato anche il fondatore di un paio di riviste, quelle toste, Mucche Selvaggio e L'Ultimo Buscadero, tanto per non fare nomi, ed era uno che appunto divulgava la buona musica in tutti i sensi, sia dal punto di vista di vendite di dischi, ma anche di riviste che ci insegnavano tante cose. Questa trasmissione è dedicata a Paolo Carù. Dicevo della novità che vi propongo quest'oggi, che è con grande piacere, perché è una delle mie band preferite, per lungo tempo è stata la mia band preferita, avevo praticamente solo loro sul piatto quando in gioventù ascoltavo quel periodo magico per loro che fu dal 70 al 75, sto parlando degli Yes, grande band, mi ero riproposto di farvi la storia degli Yes in questa prima parte della trasmissione, ma dopo due minuti scarsi mi sono reso conto che è praticamente impossibile, nel senso che ci sono un sacco di variazioni all'interno della formazione, con fuoriuscite di membri, rientri, accoppiate varie, insomma una cosa molto molto particolare, per cui ho lasciato perdere l'idea di farvi la storia degli Yes, ma ci ascolteremo alcuni dei loro membri nelle loro parti soliste. Comunque intanto andiamo ad iniziare con questo album che è stato ripubblicato, l'album si chiama Talk, fu pubblicato originariamente nel 1994, poi è stato ripubblicato quest'anno, esattamente in maggio di quest'anno, in versione cofanetto contenente 4 CD, cioè naturalmente l'album originale debitamente rimasterizzato, il secondo CD invece vede delle versioni alternate alternative, per meglio dire, di questo album originale, mentre il terzo e il quarto, che sono quelli che ci interessano, vedono un intero concerto registrato al Finger Lakes Performing Arts Center, di un posto con un nome incredibile che più o meno fa Canandaigua, non so esattamente la pronuncia, nello stato di New York. Il concerto è praticamente un recorded today perché è stato registrato il 19 giugno del 1994. Vi dicevo che ci sono state tantissime variazioni nella formazione degli Yes. Quella che vedremo in azione, che sentiremo in azione fra poco, vede John Anderson alla voce, Trevor Rabin alla chitarra e anche lui alla voce, Chris Squire al basso e alla voce, Tony Kaye alle tastiere e Alan White alla batteria. Andiamo subito dopo queste chiacchiere ad ascoltarci questi Yes versione 1994. Il brano che ho scelto per voi si chiama City of Love. We'll be right back. L'inconfondibile voce di John Anderson è quella che fa da trade union fra questi Yes del 1994 e quelli dell'epoca d'oro, diciamo gli anni 70. E perché effettivamente rispetto agli Yes del periodo d'oro, appunto quello del, diciamo, dal 70 al 78, la musica è leggermente diversa, e fra l'altro questo assolo di chitarra molto metal di Trevor Rabin non sarebbe mai successo con l'altro chitarrista, il chitarrista storico Stevie Howe, ma questo è un discorso molto personale. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama City of Love e fa parte del cofanetto che celebra questo Talk, album degli Yes del 1994, che appunto è stato ripubblicato 30 anni dopo con un sacco di cose aggiunte fino a diventare 4 CD. E vi dicevo appunto che ci ascolteremo in questa prima parte della trasmissione alcuni dei membri originali, anzi spero tutti i membri originali degli Yes, che erano 5, venivano da Londra e sono formati nel 1968. Membro originale per lungo tempo, fino alla sua morte che è successa nel 2015, il detentore, diciamo, del nome Yes è sempre stato Chris Squire, bassista e nonché cantante. Lui veniva dai Scene, una band storica dell'underground londinese, e poi appunto nel 1968 fondò gli Yes insieme alle musicisti che ci andremo ad ascoltare adesso. Il problema è che Chris Squire come solista non ha mai fatto niente dal vivo, ha fatto un solo album che si chiama Fish Out Water e niente dal vivo, così come Peter Banks, che è chitarrista originale, pur lui membro fondatore, che è stato chitarrista nei primi due album, poi se n'è andato l'hanno caldamente invitato ad andarsene a formare una band che si chiamava Flash nel 1972. Lui ha fatto alcuni album solisti fino alla propria morte nel 2013 e niente dal vivo però anche in questo caso, per cui ho deciso di unire queste due mancanze di materiale live, Chris Squire e Peter Banks, bassista e chitarrista degli Yes originali, andando ad ascoltarci una delle prime registrazioni ufficiali degli Yes, registrazione effettuata live, che viene da un doppio dischetto che si chiama Something Coming, un disco che raccoglie registrazioni appunto del 1969 al 1970. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama For Everyone, è stato registrato al BBC Sunday Show, che aveva come presentatore, chiamiamolo così, come animatore, il grandissimo John Peel, il tutto registrato il 17 di marzo del 1970, gli Yes originali, For Everyone. can be shown by your acceptance of the fact they're shown before you. Can you see? Can you know? Loneliness is a path that we possess, and when it ends, we'll be together. As I see a new day, originali. Il brano si chiama 41, è stato registrato appunto il 17 marzo del 1970, tutto per ricordare Chris Squire e Peter Banks, bassista e chitarrista originali della band del quale vi sto parlando abbondantemente quest'oggi. Altro membro originale, il tastierista Tony Kaye, che è stato nella band per i primi tre album, poi è andato e tornato diverse volte, fra parentesi proprio nell'album che vi propongo oggi, Talk, nella versione live c'è lui che suona le tastiere. Comunque dopo gli Yes formò una band che si chiama Badge, e sono anche con i Bad Fingers, altra grande band britannica. One Live Badger, il titolo dell'album live che questa band ha fatto, una copertina splendida di Roger Dean, che era l'artista che ha collaborato spesso, quasi sempre, con gli Yes. E la copertina, sto parlando del long play, apribile, e si alza il tasso, che è appunto l'animale che in inglese si chiama Badger. Registrato al Rainbow Theater di Londra il 15 e il 16 dicembre del 1972, ci andiamo ad ascoltare Tony Kaye con i suoi Badger, il brano si chiama River. Looking out for number one. You know I've been a Quando vi chiederanno di citare un brano dolce, tranquillo e bellissimo, ricordatevi di questo Soon. Lui è John Anderson in versione solista, l'album si chiama Live from La La Land. John Anderson è stato per lungo tempo il cantante solista, suonava anche la chitarra e qualche accenno di tastiera degli Yes, e poi ha avuto dei problemi vocali che l'hanno costretto ad allontanarsi. Lui pensava temporaneamente, ma invece poi è stato sostituito in maniera definitiva. Lui però continua a collaborare con diversi musicisti Yes o ex Yes, tipo con Rick Wakeman e con il figlio Oliver. E fra parentesi vorrei citare anche una bellissima collaborazione che ha avuto in passato con Vangelis, sono due album veramente molto molto belli, e vi consiglio caldamente anche il suo primo album solista, l'album solista d'esordio di John Anderson, si chiama Elias of San Hilo ed è semplicemente splendido. E questo album, appunto, Live from La La Land, chiamato così ancora prima del famoso film La La Land, appunto, è stato registrato al Roxy Theater di Los Angeles il 31 marzo del 2006. Ricordatevi questo brano, si chiama Soon. Ultimo membro originale degli Yes, un grandissimo batterista, a mio avviso, che in gioventù ho provato a suonare la batteria con scarsissimi risultati, è uno dei migliori in assoluto di tutta la storia della musica rock, anche se non è mai considerato. Si chiama Bill Bruford, lui è un membro fondatore, se ne andò però nel 1972 per unirsi ai King Crimson, scusate se è poco, e anche lui, come gli altri, è tornato diverse volte. E perché a un certo punto, questo lo devo dire, ci sono stati due band che si chiamavano più o meno Yes. Una era quella capitanata da Chris Squire e l'altra vedeva quattro ex Yes, Anderson, Bruford, Wakeman e Howe, e con dispute legali infinite, e alla fine i manager, non so chi, si misero d'accordo e le due band praticamente si fusero, e da lì nacque un album che si chiamava Union e conseguente show, conseguente tour che vedeva 8 musicisti sul palco, e da lì è uscito anche un album che si chiama Union Live, ma questa è un'altra storia. Rimaniamo a Bill Bruford, che è un di cuore jazzistico. Adesso sentirete l'album che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato insieme ai suoi Heartworks. È un album che si chiama Stamping Ground, è stato registrato in diverse location. Fra parentesi, nel 2009 Bill Bruford, all'età di 59 anni, quindi giovanissimo per i tempi attuali, dove settantenni e ottantenni la fanno per la maggiore, e lui decise di annunciò che smetteva di suonare, e così è stato. Tanto di cappello, come si suol dire, perché sono decisioni non facili. Fra l'altro non aveva problemi fisici a quanto mi consta, ma veramente ha detto: io ho dato tutto quello che potevo, basta, non ne voglio più mezza. Andiamo ad ascoltarcelo insieme appunto a Bill Bruford, Heartworks. Il brano che ho scelto per voi si chiama Up North, è stato registrato a Boston il 18 marzo del 1992. Thank you. si chiama Up North, ad eseguirlo era Bill Bruford's Earthwork, una band che lui assemblava, Bill Bruford assemblava saltuariamente quando era libero dagli impegni degli Yes, ma ha pubblicato diverse cose dal vivo. Questo è un album che si chiama Stomping Ground, il brano in particolare è stato appunto registrato a Boston nel 1992. Bill Bruford, grandissimo batterista e ultimo membro originale della band che vi ho proposto per il momento. Vi avevo già anticipato che Peter Banks, il chitarrista, rimase nella band, negli Yes appunto, i primi due album, poi arrivò, fu sostituito, lasciamo stare se forzatamente costretto o se ne andò di testa sua, diciamo così, e arrivò un personaggio, grande chitarrista, che già suonava in una band famosa all'epoca, si chiamava Tomorrow, e lui si chiama invece Stevie Howe. Anche lui da sempre è andato e tornato all'interno degli Yes, a seconda dei momenti, ha fondato anche diverse band tipo gli Asia, tipo i GTR, tipo gli UK, e poi ha fondato il Steve Howe Trio, nel quale suona suo figlio alla batteria, che è quello che ci andremo ad ascoltare. Secondo me Stevie Howe uno dei chitarristi, scusate, più sottovalutato della storia del rock, perché ha fatto delle cose veramente incredibili e piacevolissime. Il brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da un album che si chiama Traveling, ad opera appunto del Stevie Howe Trio, che è stato registrato in diverse occasioni, e il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare è il brano numero 6, lo dirò per la precisione, ed è stato registrato in quel di Brighton alcuni anni fa. Stevie Howe Trio, Siberian Cattle, la sua versione particolare. Trio anomalo, questo di Stevie Howe, chitarra, tastiera e batteria senza basso. Il brano che ci siamo ascoltati è la loro, è la sua particolare versione di Siberian Castle, un arrangiamento, un classico degli Yes in un arrangiamento molto jazzistico, diciamo così. Il tutto da un album che si chiama Traveling, che consiglio caldamente anche in questo caso, ma tutte le cose che riguardano gli Yes le consiglio caldamente. È stata la prima sostituzione all'interno del lineup degli Yes, esce Peter Banks, entra Stevie Howe. La seconda invece, il secondo avvicendamento è quello delle tastiere, tastierista, esce Tony Kaye, entra Rick Wakeman, scusate se è poco, Rick Wakeman giovanissimo, era già un ricercatissimo session man, poi entrò negli Strobes, anche in questo caso un consiglio per gli acquisti, un album live degli Strobes che si chiama Just a Collection of Antiques and Curios, bellissimo. Andiamo avanti, poi appunto lui entrò negli Yes nel 1971, sto parlando di Rick Wakeman naturalmente, giusto in tempo per registrare quella pietra miliare nella storia della musica che si chiama Fragile. Anche lui è andato e tornato tantissime volte, ma è stato uno dei primi ad andarsene perché il suo album solista d'esordio, che si chiama The Six Waves of Henry VIII, le sei mogli di Enrico VIII, ebbe un successo planetario strepitoso e fra l'altro è bellissimo. E quindi lui se ne andò per appunto seguire la propria carriera solista, ma poi è tornato tante volte e tante volte se n'è andato. Qui abbiamo una registrazione effettuata al Winter Dance Theater di San Francisco per la King Biscuit Flower Hour, trasmissione radiofonica americana, del quale poi ho parlato tante volte. E siccome il tempo stringe non posso parlare adesso, il tutto è stato registrato il 2 di novembre del 1976 e parla di Lancillotto e il Cavaliere Nero, Lancelot the Black Knight, Rick Wakeman. This is Lancelot and the Black Knight. Yes. Seconda parte di Città Fujiko di oggi, 19 giugno 2024, l'ultima trasmissione di giugno per quel che mi riguarda, perché vi ricordo che sarò in ferie per un paio di settimane e ci risentiremo dal 10 luglio. E guarda caso, questa novità che vi propongo oggi è stata registrata proprio in questa giornata. E che novità! Ho già detto Talk, un album degli Yes che è uscito nel 1994, è stato ripubblicato nel 2024 in uno splendido cofanetto con due CD in studio e due registrati dal vivo in questa cittadina dello stato di New York che si chiama Canandaigua o qualcosa del genere. Il tutto registrato appunto il 19 giugno del 1994, è la novità che vi propongo quest'oggi, che mi ha fatto parlare degli Yes nella prima parte. Yes, che è stata forzatamente interrotta, storia degli Yes più o meno, dei membri degli Yes per meglio dire, che è stata forzatamente interrotta, ma sicuramente nel tempo mi verrà data occasione di continuare questo discernimento della band, che è sempre stata la mia grande passione. Il brano che ci siamo ascoltati adesso si chiama The Calling, Yes, dalla ristampa in 4 CD di Talk. E come vi dicevo, Record Today, perché questi due dischetti live inclusi a Talk sono stati registrati in questa giornata nel 1994, e quindi possiamo partire tranquillamente con Record Today, che è sempre inserita nella seconda parte di Città Fujiko Live Club e che vi propone i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose, e per cui il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1970, siamo insieme agli alfieri di quello che era chiamato rock jazz. Loro si chiamavano Nucleus e sono stati formati nel 1969 da un trombettista jazz che si chiama Ian Carr. Poi si sono sciolti nel 1989 e ogni tanto si ritrovano insieme da vecchi amici per fare qualche concerto sporadico. Hanno fatto diversi album live e questo è un po' particolare, perché loro sono solitamente una band strumentale, come quasi tutte le band jazz, e in questa occasione invece si sono uniti a un cantante che si chiama Leon Thomas, che alcuni di voi ricorderanno cantante per Santana, ma che ha anche cantato in alcuni album di Pharoah Sanders, altro grande jazzista. Guarda caso, questo album, che si chiama semplicemente Live 1970, è stato registrato nella Mecca del jazz mondiale, a Montreux, in occasione del Jazz Festival, il 19 giugno del 1970. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano dedicato al Vietnam. Sarebbe una storia molto lunga da raccontare, quella del Vietnam, perché sono sicuro che i più giovani fra me, gli ascoltatori, se mai ce ne sono, non sanno esattamente quello che è stato Vietnam, ma comunque ci sono state diverse manifestazioni contro questa guerra, come del resto ci sono adesso per quella in Palestina. E il brano si chiama Damn Nam, che starebbe a dire I'm going to Vietnam. Loro sono Nucleus, 19 giugno 1970. You wanna, but I ain't going to Vietnam. You can throw me in jail, but I won't be going to Vietnam. 'Cause it's a dirty, mean war, and nobody seems to give a damn. They got boys up on the front line, and boys up on the back line too. They got boys up on the front line and boys up on the back line too. They got so many weapons, what do they need with me and you? Lord, Lord, Lord, how can a man get a thrill? Won't somebody tell me, how is a man supposed to get a thrill? If he's gotta drop a napalm bomb and never see the guy he's gotta kill. How much does it cost to fly a man up to the moon? How much does it cost to fly a man up to the moon? When I think of the hungry children that I see every afternoon. So you can do what you wanna. I won't be gonna be in there. You can throw me in jail. Forget about the bail. I won't be going to Vietnam. No, no, no. Cause it's a dirty, mean war, and nobody seems to give a damn. No, no, no, no. How is a man supposed to get a thrill if he's gotta drop a napalm bomb and never see the guy he's gotta kill? How much does it cost to fly a man up to the moon? How much does it cost to fly a man up to the moon? When I think of the hungry children that I see everywhere, every afternoon. So you can do what you wanna. I won't be gonna be in there. Damn, man. You can do what you wanna. I won't be gonna be in there. No, no, no, no. Cause it's a dirty mean one. And nobody gives a D.A. Fai quello che vuoi, non andrò in Vietnam. Damn them and going to Vietnam. Erano Nucleus con la voce aggiunta di Leon Thomas al Festival Jazz di Montreux in Svizzera il 19 giugno del 1970. Merci, merci. 10 anni dopo invece in concerto a Detroit, un grande personaggio, un grande cantante assolutamente super, si chiama Bob Seger, insieme alla sua Silver Bullet Band ha gareggiato fra virgolette per diverso tempo con Bruce Springsteen e gli Street Band quale miglior act live degli Stati Uniti. Poi lui si è defilato un po' dall'ambiente musicale per accudire il padre molto malato e quando è tornato non era più la stessa cosa. Comunque lui è partito negli anni 60 con una band che si chiamava Bob Seger System, e proseguito la carriera con un'altra band che si chiamava BS, e poi nel 1973 ha formato appunto la Silver Bullet Band. Due album dal vivo, 9 to 9 è il secondo, che è quello che ci andremo ad ascoltare. È stato registrato parzialmente ai Boston Gardens, ma quello che interessa a noi è la registrazione del 19 giugno 1980 alla Cobo Hall di Detroit, la title track del suo quarto album, del suo album del 1980, anzi non ricordo bene se è il quarto o meno, si chiama Against the Wind, Bob Seger and the Silver Bullet Band. Yeah, now we like to do one from the new album. This is the title cut. This is called Against the Wind. Yesterday, but it was long ago. Janie was lovely, she was the queen of my nights. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved. To prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. So many roads I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, breaking all of the rules I could bend. I began to find myself searching for shelter. To leave in, what to leave out. Bob Seger and the Silver Bullet Band, 19 giugno 1980 in concerto Cobo Hall di Detroit, il brano si chiama Against the Wind. Molto velocemente, siamo in clamoroso ritardo per la pubblicità di mezzogiorno, mi scuso con gli inserzionisti di questa fascia oraria, ma arriverò un tantinello lungo perché adesso c'è Jackson Browne, registrato dal vivo all'Olympia Theatre di Dublino in Irlanda il 19 giugno del 1996 con la sua The Pretender, che ci andiamo subito ad ascoltare. In the shade of the freeway, gonna pack my lunch in the morning and go to work each day. When the evening rolls around, I'll go on home and lay my body down. And when the morning light comes streaming in, I'll get up and do it again. Of some greater awakening, I've been aware of the time going by. They say in the end it's the wink of an eye. When the morning light comes streaming in, get up and bed again. Yeah, again. Children solemnly wait for the ice cream vendor out into the cool of the evening. Strolls the pretender. He knows it all, his hopes and dreams begin and end there. Myself a girl who can show me what laughter means, and we'll fill in the missing colors in each other's paint by number dreams. Then we'll put our dark glasses on and we'll make love until our strength is gone. And when the morning light comes streaming in, get up and do it again. Get it up again. I'm gonna be a happy idiot and struggle for the legal tender, wear the ashtray game and lay that claim to the heart and the soul of the sender. True love could have. Are you there? Say a prayer for the pretender who started out so young and strong, only to surrender. Say a prayer for the pretender. Are you there for the pretender? Say it. Say it. Say a prayer for the pretender. Put my pride down on the table, put my fear on the shelf, and I bought myself a throne to reside and let myself go. But I've traveled too far to know I'll ever know. What a long, long time, long, long time it's been. And oh, I just felt so fine. I wandered through the rain, losing. There's a thousand eyes upon me, but my mind is missing you. So this time, swear I loosen my grip on fast times and white lines, meaningless trips. What a long, long time, long, long time. It's been a little, oh, while since I felt so fine. I wandered through the rain, losing my mind. What a long, long time. It's been a long time. So over and over my sign, passed by my side. The more you try to find yourself, the more you will tend to hide. More high knees, forest trees, and greens that blind your eyes. And I lounge upon this phone I bought, to put it with the wise. For a long, long time, long, long time, it's been a little, oh, wow, it's about so fine. But I feel so good. lovers lost themselves in a bit of fear. Ooh, what can I do but let you all come through my wall? And oh, summer clothes, many of these things I know. Well, I'ma stay right here in Chicago for a little while longer. Little way, I feel right at Si chiamano OAR, che sarebbe in italiano OAR, che è l'acronimo per Over Revolution, ma questi OAR non hanno niente di rivoluzionario, fanno dell'ottima musica, è un quintetto che arriva da Rockville ed è nel Maryland ed è attivo dal 1996. I loro show sono molto molto seguiti, infatti hanno fatto diversi album live, 6 per la precisione. E fra gli altri questo che si chiama Rain or Shine. Sono 4 CD che comprendono due concerti, uno registrato il 18 di giugno del 2009 e l'altro, che è quello che interessa a noi, il 19 giugno del 2009, quindi rientra in Recorded Today di oggi. Il brano che ci siamo ascoltati da questo concerto del 19, che stava per essere cancellato per problemi di temporali, di un po' di tutto, insomma di pioggia, infatti l'album si chiama Rain or Shine, pioggia o sole, che è una frase che è scritta sui biglietti quando i concerti si fanno in ogni modo. King of King è il titolo del brano che ci siamo ascoltati, e era stato registrato il 19 giugno del 2009. A concludere il Recorded Today di oggi arrivano i Green Day con uno dei tanti album live che hanno fatto nel corso della loro carriera, soprattutto all'inizio, poi negli ultimi anni hanno un po' mollato la presa sui live, ma comunque questo Awesome as Fuck è veramente notevole. È un CD più DVD e quindi un combo registrato in diverse parti del globo terracqueo, come direbbe qualcuno, e il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare, il brano di apertura, si chiama 21st Century Breakdown, è stato registrato al Wembley Stadium di Londra il 19 giugno del 2010. Questi sono Green Day. Green Day, il brano d'apertura di questo Awesome As Fuck, si chiama 21st Century Breakdown, Wembley Stadium, Londra, 19 giugno 2010, e concludere Recorded Today. Ho meno di un minuto per dirvi che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna di Radio Città Fujiko e anche sul web con l'apposita app. Ancora una volta vi ricordo che le prossime due settimane non sarò in trasmissione, andranno probabilmente delle repliche, e vi lascio in compagnia delle novità che vi ho proposto quest'oggi. Yes, con la ristampa di Talk, quadruplo cofanetto con due CD live che contengono anche questa The Rhythm of Love che ci andiamo ad ascoltare. Ciao a tutti da Nevio.